Adesso insegno un modo per fare l'effetto, il famoso effetto del wah-wah. Vogliamo spiegare il wah-wah? Wah-wah, per chi proprio non lo sa, è diciamo... il pianto del bambino. Wah-wah, sì. Però, però sta a identificare un effetto, un pedale, un effetto. Un effetto della chitarra elettrica, spiegalo, sennò qui sì, la gente no, bisogna pensa, farlo wah-wah, sentire, siamo alla radio. Fa sentire un attimo. Senti, senti, tipo così. Ecco, come senti la chitarra fa un po' wah wah, no? Come il bambino questo, questo effetto si può fare con qualsiasi smartphone, ah, sì. Touchpad o qualunque telefono. Il touchpad. Prendi un telefono, delle chiavi. No, le chiavi non funzionano. Se prendi un telefono tipo ti fai, non so, che ne so, per esempio, non lo so, vedi, cioè, un telefono, non lo so, okay. Prendi, un no, prendi il mio che è meglio. Tipo, prendi una musica, no? Non so, per esempio, prendi una musica, cioè che tipo ne so, la musica, musica del nostro sponsor. La musica del nostro sponsor è questa, no? Adesso faccio, me lo metto in bocca il telefono e faccio l'effetto wah wah. Attenzione, sì, attenzione, attenzione, guarda come viene. Si sentiva l'effetto, sì, wah, bello, wah. Sì, invece la prossima puntata affronteremo l'effetto del flanger. Il flanger è più difficile. Più difficile da fare col telefono, con lo smartphone, difficilissimo. Perché invece che in bocca te lo devi infilare. Cosa ridi? Di taglio cosa? Drago. A parte che il mio è sottilissimo, fai vedere il tuo. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Credo asilo. Ehi, se vuoi vieni con me, ho da mangiare. Ma guardami un po', ah, ta-ta. Pensavo che avevo fame. Sai no, comincia più tardi. Che io che quando vabbè, mi va esatto, posso pagare. No, bisogna, l'idea è buona, però bisogna riprovarci. Ma ma se noi stiamo ancora qui insieme, finisce male. Ci licenziano e tutto quanto. Dai, bentornati. Era bello così, combinare no? Due, capito, due marchi. Capo e drago, lo so. Wunderwaffer e il telefonino. Non dirlo, non dirlo. No, il telefonino. Rischio. Quindi bentornati, Capo e Drago vi salutano dall'asilo Stoppani, come tutti i giorni, alle 16.45. Cos'è sta cosa? Obesità. Obesità. Non è obesità, però obesità è il primo argomento della giornata, perché si era già detto. Sì. Qual era? Qual era? Semplicità, qui c'è obesità, quella di Romina, eccetera. Sì. Beh, le canzoni, obesità. Canzoni. Le canzoni ce ne sono tante sull'obesità, sì. Sono state fatte, sono state anche amate dal pubblico, però non è di questo che dobbiamo parlare. No, no, dobbiamo parlare, si era già detto alcuni mesi fa, se ti ricordi, di quei casi di telecamere che no? Controllavano le famiglie di bambini obesi in Inghilterra, nell'intimità delle loro case, l'abitazione, per dimostrare che era lo stile di vita familiare a causare il sovrappeso dei bambini. Lo stress anche. Vabbè, che stress adesso, anche per quello, lo spread e lo stress. Ora si parla invece di braccialetto elettronico per bambini obesi, stavolta negli Stati Uniti. Sono braccialetti che registrano le pulsazioni e anche la quantità di esercizio fisico e di sonno di chi li indossa. Quindi se dormono troppo, i bambini il braccialetto elettrico lo registra, a scuola gli fanno un culo così, capito? Li fulmina. Ma Brago, ma il braccialetto elettronico lo mettono i detenuti in libertà vigilata? Vabbè, lo so. Come fai a crescere con un trauma così? Vabbè, ma può anche succedere. Da bambino, sai quelle riunioni, no? Quelle le psicodrammi? Sì. Da bambino avevo il braccialetto elettronico perché ero grasso e quindi dopo tutti ho sterminato la mia famiglia. No, vabbè, adesso no, carpa per dire, subito, no? Fa tristezza, scusa, cambiamo argomento, dai, scusa, stavamo facendo le canzoni, dai, come si fa. Vabbè, ho capito, però Kappa, noi siamo sponsorizzati da un'azienda Wunderwaffer e quindi abbiamo, cioè, non possiamo canticchiare musiche che richiamano altre aziende. Ma perché? Cioè, non si può la fare la musica, non appartiene a nessuno. Lo dici, no? Tu lo dici. Sono scoppiati dei casini in America, copyright, copyleft, Michael Moore che dice il sito lo chiudo, sono appoggio Wikipedia. Ah sì, è vero, i pirati, no? Cos'è? Scusa, quando negli anni 70 c'era Hey Jude nella pubblicità del teatro, te lo ricordi? Sì, come no, vieni. Allora se cantavi Hey Jude facevi pubblicità al teatro. Cosa c'entra? Le melodie ormai sono parte delle aziende. Ma... senti qua, ad esempio, che guerra c'è tra la Rai e la 7 per le musichette identificative, o come cavolo si chiamano quelle musichette che quando fanno vedere il marchio della... senti qua. Allora, le note sono tan dan dan dan. Ecco, questa è la 7. Sentiamo la Rai. Hai sentito? Quindi fanno una lotta tremenda. Le canzoni si copiano anche queste cose qui, quattro note. Vabbè, allora senti, facciamo così, invece di usare tan Invece di usiamo taradara taradara taradara da. Ma ti sei vuoi mangiare un Wunderwaffer? Guarda cielo qua. Un po' sbriciolato, ce l'avevo nella tasca dei pantaloni posteriori. Me ci sono seduto sopra. Come io con i book. E ora bambini, ricreazione. Bambino Alberto, occhio a te, perché se arriva anche in Italia sei finito. Cosa? Cosa? Il braccialetto elettronico per bambini obesi. Vabbè, e allora? Bambini obesi, cosa c'entro io? Non lo so, però sei bambino avvisato, mezzo salvato. Ma avvisato cosa? Beh, avvisato e da poi, me. Poi, quale braccialetto elettronico? Cioè, non capisco mica. Yoris. Yoris, il braccialetto elettronico. Tu capisci? Sì. Eccoli. Lo conosco, pure mio cugino, quello di 39 anni, aveva il braccialetto elettronico. Ma non era tuo fratello quello lì? Sì, vabbè, ma cugino, fratello, zio, quello della famiglia. Vabbè, uno di famiglia. Sì. Ma allora è obeso però. Ma quale obeso? È secco secco. Beh, allora come faceva ad avere il braccialetto elettronico? Perché c'aveva il braccialetto? Perché stava agli arresti domiciliari. In effetti, per forza, faceva le rapine. Sì, non dire certe cose ad alta voce, certe parole. Le rapine. Bisogna dirle piano piano e masticando un po'. Rapine, capito? Le rapine, sì, ho capito. Però alla fine, cos'era sto braccialetto? E che ne so? Ma come? Ma non hai detto che ce l'aveva tuo fratello, cugino? Sì, ma se l'ha venduto. E io non ho fatto in tempo a vederlo. Venduto? E certo, vabbè, mio fratello non è uno che lo frechi, quello vende tutto, è un mago del commercio. Vabbè, scusa, ma sarà che un mago del commercio, ma chi l'ha venduto un braccialetto elettronico per detenuti? È mica un articolo richiesto sul mercato. L'ha venduto a un gioielliere. Un gioielliere? Era un braccialetto, quindi l'ha venduto in nero. A un gioielliere, che poi lui lo rivende in nero a sua volta. Sì, vabbè, ma ho capito, mica stiamo parlando di un braccialetto d'oro, di pietre preziose, no? Ma è sempre un braccialetto, Alberto, tu non sai niente di come va il mondo. Io e te siamo troppo piccoli. Invece mio cugino, quello di 39 anni... Di cui 24 passati in galera, no? Giusto per puntualizzare. Ma quello che c'è, Alberto, ma che con dove stai andando a parare? E poi quali sono gli incidenti di percorso, Alberto? Lo diceva pure Gesù. Chi è senza peccato, scagli la prima pietra. Vabbè, infatti poi lui è finito in croce, cioè... Sì, poi non parlare male di Gesù. La mia famiglia è molto credente. Non si scherza su Gesù, No, ma io non scherzo su niente. Sei tu che l'hai tirato fuori con la storia della parabola. Quale parabola? Quella del vicino di casa. Ma no, la parabola dell'adultera, no? La lapidazione, scagli la prima pietra, no? Ma quale vicino di casa? Ma che ne so, tu hai detto parabola. Noi in famiglia teniamo solo la scheda craccata di Sky e ci attacchiamo alla parabola del vicino di casa. È l'unica parabola che conosco. Ma forse non è l'unica parabola che esiste, no? Cioè, non credi? Ma che ne so, Alberto, ma come parli, mo? Non ti capisco. Noi siamo bambini, devi parlare in modo più facile. Che domande mi fai? No, è solo che con te a volte mi sembra di avere a che fare con Gildo. Cioè, mi sembra di non riuscire a farmi capire. Ma chi Gildo? Quel tuo amico un po'... idiota. Idiota! Non offendere Gildo, Gildo è il mio amico numero uno, in senso cronologico. Cronologico? In senso come? Vabbè, parli troppo difficile. Sì, vabbè, Yorick, lasciamo stare, Gildo. Lasciamo stare. Lasciamo stare, cioè, qui non ci siamo, dai. È meglio, andiamo via. Yorick, sarà per la prossima volta. Oggi non eravamo sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda. Ma Drago, senti un po', vabbè. Bacchiano. Mangiati questa mungia, vaffa, prendi, fare tutto andare. Potrebbe prendi andare. Una vaffa, mangiare, tutto fare. Tutto fare a cosa? Non lo so. Wunderwaffer, spieghiamo almeno cos'è una merendina. Una merendina che sponsorizza questo Waffer, programma. Quindi dice se voi non lo comprate nei negozi, non chiude il programma. Chiude il programma. Volete mica lasciarci in mezzo alla strada? Allora, a domani, chiedo Ziro, è tradio24.it. Wunderwaffer, che mi piace e lo voglio di più. Wunderwaffer più.